Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Otto minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia e allora la cronaca di questa giornata economico-finanziaria in parte ve l'hanno già raccontata i nostri GR, ossia si tratta ancora su Alitalia, spaccati gli assistenti di volo in qualche modo, adesso chiariremo anche in che termini, i piloti dicono l'intesa non è vicina, l'ANPA va firmato, l'AVIA e la SDL no. AVIA e SDL, dalle cifre che abbiamo a disposizione, rappresentano circa 2.400 dipendenti assistenti di volo e comunque dipendenti di Alitalia, quindi non sono proprio pochissimi. Nel frattempo vanno avanti le trattative e spunta con forza l'ipotesi Lufthansa, tant'è che c'è stato anche un incontro ai massimi livelli oggi a Roma dei vertici di Lufthansa. Lufthansa si è detta pronta a entrare con una quota di maggioranza. E ci sono anche dichiarazioni di sindacati, penso a Angeletti, segretario della UIL, a favore di Lufthansa, per cui ai piloti, dalle dichiarazioni che abbiamo letto, sembra piacere più l'ipotesi Lufthansa di quella Air France. Ne parleremo più avanti perché l'incontro con i piloti è ancora in corso, quindi cercheremo di capire se nel frattempo arriveranno sviluppi, qualche dichiarazione ve la faremo sentire in apertura. I mercati finanziari rischiava di essere un'altra brutta giornata oggi, con indici in calo oltre 2 punti percentuali. In realtà l'America sta recuperando, è adesso invariata sul Dow Jones, per quello che riguarda il Nasdaq il calo invece è ancora dell'1,2%, ma Francoforte perde l'1,4, Parigi lo 0,7, Londra l'1,6, Milano in questo scenario non va così male, meno 0,7% sull'S&P MIB, meno 1% sul MIBTEL. A controbilanciare c'è Telecom, più 2,3%, Intesa più 1,6% come UbiBanca, Unipol più 0,90%, Generali più 0,34%, Buzzi Unicem meno 4,6% invece, L'Espresso meno 4,4%, Italcementi meno 3,90%, Luxottica meno 3,5%, ST Microelectronics meno 3,3%, Fiat meno 3,1% e ancora Saipem perde il 2,7% come Tenaris, il 2,4% perde Geox, il 2,3% Prismian, il 2% il calo di Seat Pagine Gialle e di Finmeccanica, l'1,8% quello di Fastweb Bulgari e A2A. Euro debole sotto quota 1,46 a 1,4585 e come sempre in questi casi, lo ripetiamo ogni volta, c'è un impatto anche sul petrolio che ha aperto di $2 quasi in calo a $105 al barile. Parleremo quindi della vicenda americana perché è entrata a due piedi nel lagone politico la vicenda dei mutui e della crisi finanziaria americana. Perché? Perché in realtà vi è stata una fumata nera a livello del Congresso, alcuni senatori repubblicani hanno dato una controproposta rispetto al piano di salvataggio di Bush, un piano da 1.000 miliardi. Il mal di pancia nelle file repubblicane era già noto, c'era chi nei giorni scorsi aveva parlato di socialismo, dell'ingresso del socialismo in America per un piano di salvataggio in cui di fatto lo Stato americano si accolla un'operazione da 1.000 miliardi di dollari, quell'operazione che dovrebbe permettere di depositare tutti i titoli intossicati, come li chiamano in America, in un grande contenitore, tenerli lì per almeno 2 anni in attesa che passi questa buriana e poi i titoli potranno essere ricollocati. Ma questa operazione dal costo di 1.000 miliardi di dollari viene vista come un intervento dello Stato inaccettabile dall'ala più ortodossa, più dura e pura dei repubblicani. E questo stallo ha creato un peggioramento sui mercati. Tra l'altro ieri il vertice alla Casa Bianca con Bush, Obama e McCain, questa notte in Italia dibattito televisivo, la campagna elettorale si sta occupando, come diciamo, a pieno titolo di questa vicenda, anche se non sono arrivate delle grandi soluzioni a livello di diciamo, di piani di intervento. Ancora 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Ci occuperemo anche, l'ho tralasciata ma è stato un errore mio, della vicenda Fortis, perché il gruppo è sotto pressione di nuovo sulla liquidità, preoccupazioni in Belgio per il gruppo Fortis che sembra non avere o sembrerebbe non avere abbastanza liquidità. Questa mattina è intervenuto anche il ministro delle finanze belga che ha confermato di essere in contatto permanente con la Banca Nazionale del Belgio. Il titolo Fortis è un gruppo bancario assicurativo belga-olandese. A fine 2007 era l'ottava banca dell'area euro e capitalizzava 40 miliardi circa. Oggi ne vale 14, cioè un terzo. Ha avuto 6 miliardi e 600 milioni di dollari di perdite e tra l'altro proprio nell'ottobre del 2007 Fortis si riteneva così forte, scusatemi il gioco di parole, da aver lanciato un'offerta per acquisire ABN AMRO assieme a Royal Bank of Scotland e Santander. Sborsarono i 3,70 miliardi di euro, ma ancora non era scoppiato il bubbone in Europa dei mutui subprime. Adesso la banca non ha liquidità, quindi se ne aveva tanta da comprarsi ABN AMRO a fine nel 2007, adesso non ne ha forse per reggere il colpo. E ieri hanno perso i titoli il 21% e anche oggi vanno molto male in borsa, ne parleremo più avanti. Record per i tassi interbancari, purtroppo l'Euribor a tre mesi è salito oggi di altri due punti base al 5,14%, è il livello massimo da quando esiste l'euro per quello che riguarda il tasso interbancario a tre mesi, che serve come riferimento anche per i mutui, tutto per colpa della tensione che comunque in America si registra, degli ostacoli che sta attraversando e che sta incontrando il piano di salvataggio messo a punto dalla Casa Bianca, quello a cui facevamo riferimento, adesso ne parleremo. Mentre dalla banca centrale si esclude un'ipotesi di un taglio dei tassi di interesse concertato con le altre banche mondiali, un'operazione unica viene esclusa da fonti interne alla banca centrale europea. E devo dire che il gufo non lo utilizziamo da un po', però oggi il direttore della divisione mercati dei capitali monetari del Fondo Monetario Internazionale, commentando l'evoluzione della crisi finanziaria, Jamie Caruana, ha detto: l'Europa si prepari al peggior scenario possibile e le istituzioni europee non siano troppo accondiscendenti con le banche. Questo prepararsi al peggior scenario possibile fa vincere a Caruana, al direttore finanziario del Fondo Monetario Internazionale, il nostro gufo. E vabbè, chissà se qualcuno mai glielo riferirà. Comunque, nel frattempo, la crisi dei mercati finanziari, con tutto il corollario di class action, di cause collettive e di cause giudiziarie da parte di azionisti, di dipendenti, di consumatori, sta provocando nelle aziende una corsa a stipulare coperture assicurative sulla responsabilità civile degli amministratori che vogliono a questo punto cautelarsi. È emerso da un'indagine della Marsh, che è una società che è specializzata nella consulenza dei rischi. Insomma, se due anni fa solo il 10% degli amministratori di titoli, dei principali titoli della borsa di Londra, della City, ricorreva a coperture assicurative, oggi la percentuale è di 1 su 2, il 50%. Con un giro d'affari di 8 miliardi di dollari a livello mondiale, questo valgono le coperture assicurative che i dirigenti a questo punto stipulano per evitare poi cause giudiziarie. Alcuni dati sull'area euro: la Francia nel secondo trimestre il PIL ha il segno meno 0,3%, più 1,1 rispetto invece all'anno precedente. L'inflazione rallenta per fortuna invece in Germania e in Spagna invece, lo diciamo a Zapatero, il mercato immobiliare continua a dare segnali di crisi. Le vendite di case tra gennaio e luglio sono calate del 27%. Allora, prima di parlare di America, una nota importante, anzi parleremo anche dell'Italia, ma una nota importante per quello che riguarda le calzature. Siccome la Guardia di Finanza ha sequestrato calzature con sostanze nocive, erano 1.700.000 calzature in pelle con marchio contraffatto e tra l'altro erano prodotte da 28 imprenditori nell'area di Firenze Prato, 21 dei quali cinesi, ma erano sparsi in tutto il territorio, soprattutto Firenze Prato e Lazio. E tra l'altro il valore della merce vale sui 20 milioni e hanno riscontrato in queste scarpe la presenza di cromo esavalente, sostanza assolutamente vietata nel processo di concia della pelle perché altamente tossica e addirittura cancerogena. È chiaro che come associazione di idee subito il pensiero va al latte cinese, ma le due cose sono assolutamente diverse. Però poco fa l'Associazione Nazionale dei Calzaturifici Italiani, per voce del suo presidente Vito Artioli, ha detto... la notizia di oggi conferma quanto noi sosteniamo da tempo: le calzature prodotte a bassissimi costi possono portare a grandi rischi per la salute. Troppo spesso alcuni prodotti, e in particolare quelli provenienti dai paesi asiatici, non sono allineati alle normative europee, mentre l'ANCI ribadisce che tutte le calzature prodotte in Italia garantiscono il rispetto delle normative comunitarie e quindi della salute per chi le indossa. Allora, all'Italia, rapidamente, poi ne parleremo, sono tornati mezz'ora fa, 40 minuti fa, sia Avia che SDL. Avia rappresenta circa 750 assistenti di volo, SDL è un sindacato che rappresenta invece anche altri dipendenti di terra, sono 1700 persone, sono tornate a sedersi al tavolo delle trattative. È da 5 ore, più di 5 ore che prosegue il confronto, intanto... tra i vertici della CAI e i piloti, ANPAC e Unione Piloti. La trattativa va avanti anche se il termine è scaduto alle 13. Sentiamo questa mattina, quindi prima di iniziare questa lunga maratona di trattativa, che cosa ha dichiarato il presidente dell'ANPAC, Fabio Berti, al microfono del nostro Vincenzo Miglietta. Abbiamo letto su diverse testate giornalistiche di supposte aperture. Non ci sono mai state queste aperture, continuiamo a trattare, la situazione è questa. E anche per l'ANPAV, che era scettica, però poi è arrivato l'ANPAV, un'altra, sono 545 assistenti di volo, invece l'ANPAV ha sciolto il nodo, lo ha fatto a mezzogiorno e ha firmato. L'ANPAV, dopo un'attenta analisi e soprattutto consultazione per quanto riguardava la struttura tutta e il Consiglio Generale, e dopo aver analizzato, riflettuto fino a tarda notte, ha deciso di sciogliere il nodo riguardante l'ultima parte che ci aveva già visto preoccupati e comunque in attesa di sviluppi, che riguardava tutta la questione di carattere contrattuale e alcuni elementi di garanzia e di spiegazioni ulteriori per la gestione degli esuberi. Ha avuto risposte di massima garanzia e massima attenzione a quello che saranno e che sarà la gestione di tutti i problemi riguardanti gli esuberi, che ricordiamo da questa avvertenza la categoria degli assistenti di volo sarà quella a dover gestire il più alto numero di esuberi rispetto alle altre categorie. A fronte, ripeto, di garanzie e di elementi di certezza che ci possono permettere di almeno tranquillizzare le persone che saranno o che rientreranno nel gruppo degli esuberi, e altrettanto a fronte di risposte riguardante la garanzia dei livelli retributivi, che era uno dei punti sui quali ci eravamo bloccati come espressione di consenso definitivo, la nostra associazione ha sciolto il nodo e questa mattina siamo andati a porre la firma sull'accordo conclusivo. E questo era appunto Massimo Muccioli, presidente dell'ANPAV. 1300 gli esuberi, dai documenti che ha in mano l'ANPAV, che riguarderebbero gli assistenti di volo. Nel frattempo, dicevamo, Lufthansa ha detto di osservare con attenzione la situazione e vi è stato un incontro anche con Guglielmo Epifani per quello che riguarda Lufthansa. E ancora, tra l'altro, si è svolto questa mattina un incontro tra i segretari generali dei quattro sindacati e alti dirigenti della Lufthansa. Polverini, segretario della UGL, Renata Polverini, dice: per noi Lufthansa è il partner ideale, anche secondo Angeletti, segretario della UIL, Lufthansa è il partner ideale, e anche i piloti non sono favorevoli a Lufthansa. Vedremo che cosa succederà e se Lufthansa sarà in qualche modo il coniglio fuori dal cilindro di questa vicenda. Le dichiarazioni che abbiamo visto sono anche di un interessamento per un ingresso come quota di maggioranza. Tra l'altro il portavoce della Lufthansa ha dichiarato che oggi il presidente Wolfgang Mayr-Ruber è a Roma su richiesta del governo italiano ed è per questo che ha incontrato anche i rappresentanti sindacali. Va bene, vedremo, ne parleremo anche tra un'ora. Adesso però cambiamo tema. Il numero per i vostri sms è 349-238-6666. Certo che abbiamo visto anno zero ieri, molti dei temi toccati lì li abbiamo toccati anche noi in questi mesi. Non vi preoccupate, Gianni Dragoni sarà il nostro ospite, come fa ormai da mesi, nella seconda ora. Adesso però parliamo di questa frenata, di questa battuta d'arresto che è arrivata dall'America, un piano che sembrava essere insomma già approvato. Bush ci tiene molto, il piano di salvataggio, il mercato ha reagito male, ma insomma di là dall'oceano c'è qualcuno che, quando si parla di Stato e soprattutto se appartiene all'area repubblicana, beh, insomma, tutta questa operazione di salvataggio non la vuole proprio digerire. Eh sì, perché il piano, che ufficialmente vale 700 miliardi di dollari, ha subito uno stop nella notte, quando un gruppo di deputati e senatori repubblicani ha presentato un piano alternativo che prevede sì la creazione di un fondo di emergenza per fronteggiare le difficoltà finanziarie delle banche, ma non, come nel piano di Bush, l'acquisto dei cosiddetti toxic assets, ossia i prodotti, diciamo, intossicati, quelli che nessuno vuole, quelli che stanno affossando e contaminando i mercati finanziari. Questo nonostante nelle ore precedenti sembrava essersi delineata un'intesa per cui l'esborso sarebbe dovuto essere graduale di questi 700 miliardi, con una prima tranche da 250 sotto la supervisione del Congresso. Avrebbe portato anche un limite agli stipendi dei manager di banche che si avvalgono di questo aiuto. Venivano date delle opzioni al governo per acquistare azioni dei gruppi aiutati, aiuti alle famiglie per rinegoziare i mutui, ma insomma l'ala più dura e pura, più ortodossa dei repubblicani, di questo intervento definito socialista proprio non ne vuole sapere. Nel frattempo non è che Wall Street si fermi, perché è fallita Washington Mutual e tutta l'attività è stata comprata a JP Morgan per 2 miliardi di dollari. E tra l'altro Washington Mutual valeva praticamente circa 3 miliardi di dollari, ma il titolo era crollato del 90% da inizio anno. Nel frattempo anche Wachovia è in picchiata, perché, e anche National City, sono due grossi istituti, perdono il 25% Wachovia e il 15% National City. E poi anche Bush poco fa, due ore fa, ha parlato. My administration continues to work with the Congress. La mia amministrazione sta continuando a lavorare con il Congresso sul piano di salvataggio. Noi abbiamo bisogno di un piano di recupero per l'economia. Si tratta di un piano massiccio, perché ci troviamo di fronte a un problema molto grande. Abbiamo bisogno di muoverci molto in fretta. Approvare il piano velocemente dal punto di vista legislativo è una sfida. I membri del Congresso vogliono intervenire, vogliono esprimere le loro opinioni e dovranno essere ascoltati. Ci sono divergenze di opinione su alcuni aspetti del piano, ma non c'è disaccordo sul fatto che qualcosa per sostenere i mercati debba essere fatto. La procedura legislativa a volte non è molto semplice. ma il pacchetto di provvedimenti va approvato. Saremo all'altezza. Repubblicani e democratici troveranno un accordo su un piano che risolverà la crisi. Republicans and Democrats will come together and pass a substantial rescue plan. Repubblicani e democratici troveranno un accordo su questo piano, ma a me sembra che più che tra repubblicani e democratici l'accordo debba essere trovato tra repubblicani, tra le due anime o correnti, come si chiamerebbero da noi. Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore degli Stati Uniti, buonasera. Buonasera, e a te giro la domanda. Abbiamo avuto l'ennesimo colpo di scena. Eh sì, perché nessuno poteva immaginare che gli ostacoli più grossi sarebbero arrivati dall'interno del Partito Repubblicano, o era immaginabile? Dall'interno. Allora, il discorso è ideologico o politico? E la mia interpretazione è che è politico. Il problema non è ideologico, non è che improvvisamente un'ala repubblicana cerca cambiare davvero sostanzialmente il piano perché non vuole l'intervento dello Stato a cui è refrattario, perché sappiamo che altre amministrazioni repubblicane, inclusa l'amministrazione Reagan, hanno fatto pesanti interventi statali. Per natura gli interventi statali americani sono temporanei, non sono strutturali, sono così per risolvere una situazione problematica come quella che abbiamo oggi, ma non sono degli interventi a lungo termine. Questo lo sanno benissimo i repubblicani, se non che la situazione sul piano politico è delicatissima. Abbiamo John McCain che dovrebbe incontrarsi fra poche ore con Barack Obama per il loro primo dibattito. McCain vuole arrivare a questo dibattito con un piano approvato, soprattutto vuole arrivare a questo dibattito con una posizione di leadership. Io ho il sospetto che McCain non sia del tutto estraneo alle posizioni rigide di alcuni dei suoi compagni di partito repubblicani. Prendono le distanze dalla Casa Bianca, isolano in qualche modo i democratici che con la Casa Bianca hanno lavorato molto da vicino, visto che sono loro ad avere il controllo di Camera e Senato. Sono certi che democratici non andranno avanti da soli, perché per una cosa di queste proporzioni occorre il consenso bipartitico, e dunque esprimono dubbi, difficoltà, problemi. Lo scenario che ho sentito discutere qui fra operatori a Wall Street, che sono carichi di tensione come puoi immaginare, perché attendono che finalmente si arrivi a una conclusione, e che ci sia un po' il gioco delle parti, che ci siano delle piccole concessioni e che alla fine McCain giochi un po' un ruolo di intermediario dell'ultima ora, un po' come fosse lui il salvatore di questo piano, e non Bush, non Paulson e non Barack Obama, in modo da arrivare poi poche ore dopo a questo dibattito come quello che ha sbloccato la situazione. Questa è un'ipotesi. Dietro questo naturalmente ci sono poi alcune resistenze reali. Il pronostico è che alla fine ci si metterà d'accordo, che ci si metterà d'accordo forse prima di stanotte, in modo che anche questo famoso dibattito presidenziale possa andare avanti. Allora Mario, un'altra domanda, perché tu hai chiarito bene come il problema sia politico, non ideologico. Tra l'altro, appunto, in America gli interventi statali sono temporanei, non restano, un po' come da noi con l'Italia, no? Per usare un riferimento così. Ma c'è un altro aspetto che forse giustifica anche il nervosismo repubblicano. Obama con questa ultima accelerazione della crisi ha recuperato parecchi punti. C'è chi dice, come il Washington Post, 9 punti su McCain, ma è quello che è sicuro è che si è annullato l'effetto della Palin, che era un effetto importante per McCain. Allora può essere, aiutaci a capire intanto anche perché Obama recupera punti con una crisi cui nessuno ha una soluzione, per cui bisognerebbe capire come mai si arriva a questo risultato, e poi se possa essere anche una spiegazione questa del nervosismo repubblicano. Certo, sicuramente, e la spiegazione del nervosismo repubblicano è che c'è un dibattito fra poche ore, e se si va a questo dibattito, primo, senza un piano, e dunque con l'amministrazione che non è riuscita a far passare una cosa importante, e con i repubblicani all'indice, nel momento in cui tu vai a un dibattito e l'economia è in difficoltà, la borsa cade, le banche falliscono, l'indice va inevitabilmente su chi sta al ponte di comando, e al ponte di comando ci sta un presidente repubblicano, un congresso che era repubblicano fino a 2 anni fa, e dunque questo fa gioco a Barack Obama. Per questo Barack Obama è partito molto intelligentemente all'attacco negli ultimi 10-15 giorni ed è riuscito a recuperare le posizioni che aveva perduto. La gente è preoccupata e invede in lui un uomo deciso che ha le idee chiare sull'economia, si sa che McCain le ha molto meno chiare e dunque questo ha giocato a suo favore. Io, come ti dicevo, credo che la spiegazione in questo momento sia politica. McCain che cerca di in qualche modo recuperare e di essere quello che in qualche modo riesce a mettere le parti d'accordo. Nel frattempo però i drammi vanno avanti, abbiamo visto che Washington Mutual è caduta, ti posso dire che c'è una certa preoccupazione sui mercati monetari, non c'è liquidità, parlavo con un operatore poco fa, diceva il mercato high yield shut down, il mercato di mezzanine shut down, tutto shut down, tutto sì, chiuso, che vorrebbe non dire, vuol dire non c'è liquidità sul mercato dei titoli alto rendimento ma neanche quelli mediani. Tecniche attraverso le quali le aziende si indebitano, ricorrono all'indebitamento per poter andare avanti e per poter girare. Ecco, tutte le forme più tradizionali di liquidità non ci sono, non ci sono prezzi sul mercato, in genere si danno delle garanzie, dei collaterali. Ecco, anche un CCT a un certo punto che era poteva valere un 95, quindi ottenere un 95 in cambio, prezzato a 98, 95 in cambio di cash, ecco, anche un CCT a un certo punto veniva valutato 60, 60 4, perché chi lo prende non sa cosa se riesce a rivenderlo dopo una settimana o dopo 10 giorni e a che prezzo lo rivende. E una battuta perché siamo un po' lunghi con i tempi, Mario, e chiaramente sui repubblicani in questo caso non possiamo parlare di effetto Palin. Tu ricordavi come McCain dia un segnale di debolezza in termini economici, la sua vice non ha nessuna esperienza per quello che so io di carattere economico, quindi non è rassicurante in questo senso? Non è rassicurante, l'effetto Palin rischia di svanire, anche se lei resta una donna, devo dire, l'ho vista proprio l'altro giorno alla Clinton Initiative, resta una donna di grande energia, molto simpatica. Beh, ma manca solo che tu aggiunga anche bella e abbiamo quando concluso. Quando si arriva al crollo epocale dell'economia della finanza americana, tutti, a parte la simpatia e anche, diciamo, bellezza, si aspettano qualcosa di più concreto. Bene, Mario, almeno diciamo hai riequilibrato quell'inizio un po' da gufo che non tu, ma che il programma aveva preso con certe dichiarazioni del Fondo Monetario. Almeno chiudiamo, prima di lasciare la linea al metro e alla pubblicità, con un giudizio estetico sulla Palin, mentre poi resta invece sullo sfondo tutto quanto tu ricordavi, la difficoltà del mercato, liquidità di mercato, lo dico chi sta scrivendo, vuol dire che non si riesce a far prezzo, come ricordava Mario Platero, non c'è nessuno che ti dà i soldi e non riesce a collocare strumenti anche relativamente sicuri perché non sai quanto prezzeranno fra una settimana, fra due settimane. Ecco perché poi l'Euribor da noi schizza questi livelli, se vuoi dei soldi liquidi paghi di più rispetto a qualche mese fa. Grazie al corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti, e adesso meteo, pubblicità, poi sentiamo Guido Rossi e anche Domenico Siniscalco che hanno parlato della crisi oggi in un convegno che abbiamo seguito, poi mercati e la vicenda Fortis fa traballare il primo gruppo bancario belga-olandese, scusatemi. Fortis ha perso 21-23% ieri e oggi, insomma, ed era il colosso il colosso bancario belga e olandese, bancario assicurativo, così solido, lo ripeto perché alcuni hanno scritto al 349-238-6666, che a ottobre dell'anno scorso, quindi un anno fa, si era permesso per modo di dire, di lanciare un'offerta sulla ABN AMRO, colosso olandese bancario, assieme a Royal Bank of Scotland e agli spagnoli di Santander. In tutto i tre hanno tirato fuori 70 miliardi di euro, quindi se li aveva allora evidentemente aveva mal calcolato i danni e le esposizioni nei confronti degli strumenti strutturati, cartolarizzati e quant'altro. Comunque sentiamo che ne pensa di questa crisi Guido Rossi, fece una lunga intervista con noi qualche mese fa, ahimè profetico, ex presidente della Consob, uno dei maggiori avvocati, esperti di diritto in Italia. Ascoltiamo la microfono la nostra Paola Nania. Oggi si è parlato di crisi a Courmayeur, la Fondazione Courmayeur, i nuovi equilibri mondiali, imprese, banche e risparmiatori. Il capitalismo di mercato, così come è stato tradizionalmente ritenuto, ha creato la crisi nella quale viviamo e non è, contrariamente a quello che si è sempre pensato, stato capace di risolvere la crisi all'interno. Cioè la famosa mano invisibile di Adamo Smith che doveva risolvere da sola tutti i mercati, ognuno facendo il proprio interesse, non è servita. La mano invisibile si è rivoltata ed è diventato un pugno. Quindi è per questo che io dico che quel tipo di capitalismo di mercato non ha in sé gli strumenti sufficienti per superare le crisi. Quali sono allora gli strumenti necessari secondo lei? Beh, gli strumenti necessari, intanto adesso a questo punto sono intervenuti tutti gli strumenti da parte dei governi, quindi è diventato non un capitalismo di mercato ma un capitalismo di Stato con i fondi sovrani e così via. Verso il quale mi sembra parecchio critico lei. Ma sono parecchio critico perché è inutile che si finga di dire che in fondo anche i fondi sovrani diventano strumenti di mercato, perché questo non è affatto vero. Rimangono sempre fondi sovrani e rimangono sempre la partecipazione dei governi nell'attività di mercato e delle imprese. Quindi bisogna trovare delle formule nuove che sono molto difficili da trovare, ma bisogna ripensare tutto. Lei per esempio ha parlato di autorità indipendenti. Sì, beh, queste sono molto importanti e finora le autorità indipendenti sono considerate le maggiori responsabili delle crisi che sono avvenute perché non hanno vigilato. Sarebbe opportuno che fossero dotate di maggiori poteri a volte e che avessero la possibilità di applicare le sanzioni, cioè di quello che viene chiamato enforcement. In verità le autorità indipendenti hanno abbastanza dormito e non hanno applicato le sanzioni che già potevano applicare coi poteri che avevano. In alcuni settori i poteri non li hanno e quindi è necessario dare loro i poteri. Lei ha parlato del mito della Fenice, secondo lei riusciremo a risorgere dalle ceneri o no? Il mito della Fenice, ogni 500 anni la Fenice prendeva i ramoscelli secchi dei più profumati alberi, dalla cannella al mirto, alla menta e così via, li metteva nel suo nido e sotto i raggi del sole fin quando questi bruciavano, e poi la Fenice si buttava sul nido e bruciava insieme. Ogni 500 anni poi dalle ceneri ne nasceva una nuova. Io credo che una nuova nascerà, perché la crisi è talmente forte che, come quando succedono le crisi forti, poi c'è anche una solidarietà internazionale che fa tutti in fondo partecipare alla ricerca di soluzioni. E la soluzione è il piano Paulson o no? No, il piano Paulson è soltanto una sorta di toppa messa sui calzoni dei jeans, quindi non serve a niente. Insomma, quindi le responsabilità, già lo disse Guido Rossi ai nostri microfoni qualche settimana fa, però c'è chi inizia a puntare l'indice in maniera molto molto forte sulla gestione di Alan Greenspan, che fu osannato, devo dire, lo facemmo anche noi, quando lasciò la guida della Federal Reserve, si disse un grande stratega. Sì, forse qualche colpa l'aveva avuta nel creare la bolla della New Economy, forse i tassi li aveva tenuti troppo bassi, troppo a lungo dopo l'11 settembre, ma insomma il giudizio era più che positivo. Adesso, insomma, con quello che sta succedendo, certo la colpa non la si può dare a Ben Bernanke, che è entrato in carica da 2 anni, se non ricordo male, non vorrei dire un'inesattezza, però insomma forse la politica della Federal Reserve è stata sbagliata, troppa liquidità, troppi pochi controlli. Il Congresso americano non ha mai voluto obbligare Fannie Mae e Freddie Mac a ricapitalizzarsi, ad avere soldi in cassa per i prestiti che stavano garantendo, insomma un coacervo di errori. I mercati come hanno chiuso? Meno 1,5% in Mibtel e anche l'S&P MIB, meno 1,7 Francoforte, meno 1,5 Parigi, meno 1,8 Londra e il Belgio, e qui si sente l'effetto del crollo di Fortis, meno 3,2% l'indice belga. L'America sta perdendo lo 0,6%, l'euro a quota 1,4584. Il miglior titolo tra quelli più grossi, Telecom più 2,1, Unipol più 0,7. I peggiori titoli, Buzzi Unicem, Espresso, Italcementi, Luxottica, che perdono tutti il 4%. Buzzi Unicem e tutte le costruzioni molto molto male, l'Espresso continua a sprofondare, un altro 4,4% oggi. Esattamente, infatti ovviamente si prende profitto soprattutto sulle azioni che si ritiene siano maggiormente legate al ciclo, visto che peraltro proprio oggi negli Stati Uniti è stato rivisto al ribasso la stima della crescita del PIL del secondo trimestre. Inoltre anche gli economisti appunto temono un rallentamento dell'economia, ecco perché i titoli del cemento, ad esempio, come hai detto più tu, sono quelli che in genere perdono di più, comunque ultimamente sono i più volatili, a dispetto invece del fatto che in genere sono sempre stati un settore più solido. Beh, com'è il cemento volatile è anche pericoloso, però al di là della battuta, Eleonora, è chiaro che il rallentamento economico, che devo dire non è più una previsione, è una certezza, visti gli ultimi dati diffusi da Fondo Monetario, OCSE, governo italiano per quello che riguarda l'Italia, penalizza anche il settore delle costruzioni. Vorrei sapere sull'Espresso, perché i titoli dei media, non solo l'Espresso, ci mancherebbe, sono stati parecchio martellati in queste sedute. Sì, infatti abbiamo visto nei giorni scorsi che l'UPA, l'associazione dei pubblicitari, ha messo in conto un rallentamento di quella che sarà la raccolta pubblicitaria. In aggiunta ci sono stati alcuni report positivi, in primis Deutsche Bank su Espresso, che ha appunto innescato un'onda di vendite proprio sul gruppo. Peraltro si può dire il bilancio settimanale è abbastanza pesante, -15% infatti per l'Espresso. Allora, un po' di ottimismo, l'ottimismo è il sale della vita. Telecom Italia +2,1%. Sì, Telecom Italia ha beneficiato di più fattori. In primis sono andate un po' meglio rispetto agli altri comparti le azioni del settore delle TLC, questo in tutta Europa. In secondo luogo, ovviamente, ciò che ha contribuito a far salire i titoli di Telecom è il fatto che proprio ieri è emerso, dopo il consiglio di amministrazione della compagnia, che sono state manifestate offerte per le azioni Telecom Italia. Non è stato detto da chi, ma i rumor sostengono... Vabbè, i libici, ma non solo, pare che ci siano anche fondi del Qatar e fondi russi interessati a entrare nella compagine azionaria della compagnia. Di sicuro qualcosa sta per accadere, la borsa lo presagisce e per questo ha fatto risalire le azioni del 2%. Tripoli, bel suol d'amore per Telecom Italia, ma non solo, come tu ricordavi, insomma la finanza e i grossi gruppi, in primo luogo bancari, ma non solo, stanno ricevendo quel poco di liquidità che ricevono da fondi sovrani asiatici, fondi sovrani medio orientali, da chi i soldi ce li ha e anche appunto altri paesi. Grazie a Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore. Dopo il GR e la pubblicità commenteremo invece la vicenda Fortis, perché è la prima volta che un gruppo bancario del genere, ripeto, un gruppo primario di assicurazioni e credito in Olanda e Belgio, perde in due giorni delle cifre e dei valori simili a quelli dei crack americani, -21% ieri, -25% oggi. Al di là del calo che è intorno al 0,5% in tutti gli indici europei, spicca il Belgio, -3,2%, perché lì si sta battendo sulla borsa belga e sulla borsa olandese, che oggi ha perso il 4%, il tonfo, c'è chi dice già crollo verticale, del colosso bancario assicurativo Fortis, che appunto è belga-olandese, ha perso il 21% ieri, il 25% oggi. Come ricordavamo, fino al 2007 era considerato un gioiello dal punto di vista bancario, tant'è che assieme a Santander e Bank of Scotland si era comprato la ABN AMRO. Allora, da Bruxelles, Enrico Brivio, corrispondente Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Dicci qual è il problema di Fortis, che sembrava così forte, da appunto comprarsi l'altro grande gruppo olandese meno di un anno fa. Liquidità e perché? Ma liquidità, ma forse proprio lì sta una delle ragioni della debolezza attuale di Fortis, proprio di aver fatto forse un passo più lungo della gamba nel momento in cui acquistò parte delle attività di ABN AMRO per 24 miliardi. Ora, è stata un'operazione fatta contando poi di poter raccogliere liquidità sui mercati, e quando invece i mercati hanno preso un'altra direzione e, come succede ora, è molto più difficile raccogliere capitali, ecco che Fortis ora deve vendere attività tra i 5 e 10 miliardi di attivi, di asset si dice ora, e quindi io direi che forse proprio lì, in quella politica espansionistica che fu lanciata da Jean-Paul Vautrin, che poi dovette lasciare, no? E poi ora si trova la radice forse anche delle difficoltà attuali. Poi su questo sono innestate anche voci in parte incontrollate. Ieri si diceva che la banca centrale olandese avesse chiesto a Rabobank di aiutare con delle liquidità forti, poi sono state smentite queste voci, oggi però sono tornate a circolare sui mercati voci di difficoltà ancora di forti, tanto che Herman Terfilst ha convocato una serie di interviste, di anche ha rassicurato i giornalisti per rassicurare e dire che non c'è nessun rischio di bancarotta, però nonostante questo, come dicevi, il titolo ha perso più del 20% in borsa. Allora, per dare un'idea di cosa stia capitando al gruppo Fortis, valeva praticamente nel 2007, un anno fa neanche, 10 mesi fa, 40 miliardi di euro di capitalizzazione di borsa, adesso ne vale 14, cioè si è già bruciato il 70% del valore. Vorrei capire una cosa: quanto pesa nell'economia olandese, belga, gruppo Fortis? Perché a noi può dire anche poco o pochissimo, però insomma in quell'area, nel vecchio, come si chiama una volta, Benelux, è una banca di riferimento, tant'è che si è saputo poco fa che il presidente della banca centrale olandese Knut Wellink ha cancellato il suo intervento previsto a una conferenza a Chicago e sta rientrando con un aereo frettolosamente in Olanda per seguire da vicino la vicenda Fortis nel caso la banca centrale olandese dovesse intervenire. Enrico. Sì, dicevo, come dicevi bene tu, la capitalizzazione è scesa a tal punto che se lo confrontiamo ai 24 miliardi in cash che abbiamo pagato per le attività di ABN AMRO, ci rendiamo conto, ovviamente adesso il mercato è totalmente cambiato, ma come insomma quella strategia espansionistica pesi ora su Fortis. Terfilst, come dicevo, l'attuale amministratore delegato, comunque convocato oggi i giornalisti per assicurare, per dire che non c'è nessun rischio di bancarotta, per ricordare come il gruppo sia anche diversificato nel settore bancario, assicurativo ed in altri settori dei servizi finanziari, per cui ha garantito di avere una diversificazione al di là, insomma, delle attività bancarie. Però tutto ciò non è bastato. Indubbiamente il gruppo Fortis è un gruppo di riferimento nel Benelux, è una delle banche più importanti in Belgio e anche in Olanda, soprattutto dopo aver acquisito le attività di parte delle attività di ABN AMRO, è un punto di riferimento nel settore, appunto, delle banche assicurazioni, che è molto sviluppato nel Benelux. E infatti Fortis ha detto di avere assicurato di disporre di liquidità, di una base diversificata di liquidità per più di 300 miliardi, ma questo non è bastato. Ha anche aggiunto che venderà società e comunque assets per un valore tra i 5 e 10 miliardi di euro. Il problema è che quando si entra in questo clima in cui siamo da un anno di sfiducia da banca a banca, di non voler prendere rischi, di crisi del credito in qualche modo, tu puoi dare tutte le garanzie che vuoi, ma quando il clima, l'orientamento è negativo, poi il mercato continua a punirti, facendo anche delle volte morti e feriti assolutamente innocenti. Noi vedremo come andrà questa vicenda. Certo è che la tensione è ai massimi, e a questo punto non solo, come raccontava Mario Platero a Wall Street, ma anche tra le piazze europee. Grazie Enrico Brivio, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, e adesso le informazioni per chi è in viaggio e poi l'ennesimo capitolo della vicenda Alitalia. Sembra più una soap opera che una vicenda industriale. Un altro rinvio, il penultimatum delle 13 infatti esaltato, piloti e anche le altre sigle che non hanno firmato si rivedranno lunedì prossimo. E anche questa volta parliamo di Alitalia. Un paio di risposte ad alcuni, immagino, bancari che hanno scritto dicendo sì, sarà faticoso per lei commentare mercati sempre in calo, ma si figuri per noi che dobbiamo avere a che fare con i clienti, con gente che ha sottoscritto i prodotti. Avete ragione, è sicuramente più difficile per chi sta allo sportello rispetto a chi sta al microfono, e anche perché spesso i bancari non hanno poche se non nessuna responsabilità per i prodotti che collocano, sono indicazioni di scuderia, per cui insomma loro sicuramente non hanno grandi responsabilità in quel senso. Di cosa parliamo allora? Parliamo di Alitalia. Alitalia, Ali Dallas, Ali Dynasty, Gianni Dragoni, la voce di Radio 24, la firma del Sole 24 Ore quando parliamo dell'Italia, buonasera. Buonasera a tutti, ciao. E da ieri sera anche l'idolo di molte ascoltatrici, a giudicare dagli sms che vediamo, e questo ci fa piacere dopo la tua presenza ad anno zero. Allora, no, devo buttarlo un po' a ridere perché con queste giornate, ma almeno Mario Platero ci ha raccontato il suo giudizio estetico sulla vice candidata alla presidenza americana Palin, nemmeno con te parliamo, restiamo in tema. Seriamente, i piloti hanno detto ci rivediamo lunedì, gli assistenti di volo, alcuni hanno firmato ANPAV, ma Avia e SDL non ancora. Tra l'altro Avia e SDL rappresentano come sigle sindacali in quel dedalo di sigle che era l'Italia, 751 assistenti di volo l'Avia e SDL 1700, ma oggi non scadeva alle 13 l'ultimatum, e soprattutto siamo tutti d'accordo che martedì 30 è l'ultimo giorno, come ha dichiarato Fantozzi, o è il penultimo giorno di nuovo? Diciamo che è sempre il penultimo, mi sembra, in questa vicenda infinita, ma ormai più che di ultimatum si è parlato di slittamenti dei termini, e ancora una volta questa trattativa dimostra come poi si vada avanti senza un limite effettivo. Il discorso del 30 settembre era il limite per mettere a terra gli aerei, ma dopo l'adesione della CGIL è sembrato che sia ritornata la liquidità, sia tornato il carburante e sia stato scongiurato il rischio, probabilmente impugnato in maniera tattica, che gli aerei si fermassero il 1 ottobre. La proposta, non a caso, la proposta della CAI, che è stata ripresentata, l'offerta non vincolante di acquisto della poltrona dell'Alitalia, ora ha una validità fino al 15 ottobre, quindi okay. I tempi sembrano essersi un po' riaperti. Un po' dilatati, va bene, come il debito dell'Italia. Andiamo avanti sulle notizie. Tu hai capito bene perché la CGIL, so che la domanda sembra un po' così naif, ma perché la CGIL e i piloti e alcune altre sigle hanno firmato, cioè di nuovo dal punto di vista sindacale, sugli esuberi, sulle garanzie, che cosa c'è? Ma in generale c'è sempre una certa confusione su quello che sono i dettagli a volte importanti dell'accordo a cui ad esempio la CGIL ha aderito. Però alcuni elementi, da quello che i giornali hanno scritto anche stamattina, sono che sicuramente i tagli o le riduzioni di stipendio si sono un po' alleggeriti. Ti interrompo perché mi hanno appena consegnato un'agenzia battuta in questo istante che i segretari generali di CGIL, CISL, UIL e UGL sono stati convocati a Palazzo Chigi alle 19.30. Sarà un'altra bella giornata per i colleghi romani che stanno seguendo la vicenda l'Italia. E vabbè, 19.30 lo si apprende da fonti sindacali, quindi probabilmente si va a stringere anche questa sera. Gianni, prego, non ti interrompo. Ma sì, ogni sera si tenta di stringere qualcosa, in effetti qualche passo avanti negli ultimi giorni è stato fatto. Ma allora, uno dei... ad esempio sembra che i tagli allo stipendio siano stati ridotti di 150 euro al mese, quindi 150 euro in più rispetto alla riduzione precedente, che comunque rimane. Allora ti faccio poi... sì, scusami. No, poi sembra che l'abbattimento della retribuzione, il famoso 6-7% per gli assistenti di volo di riduzione dello stipendio, sia non più il minimo che veniva tagliato, ma il massimo che si può togliere dalle buste paga, teoricamente poi se si vola molto, se la compagnia è in condizione di volare molto, viene recuperato, mantenere lo stipendio, ma i riposi anche, restano 4 riposi al mese, quindi su questi punti che sono comunque importanti per la vita dei lavoratori, eccetera, ci sono state delle concessioni, se così possiamo chiamarlo, delle rinunce dell'azienda, della nuova Arcai a tagliare. Allora, due domande rapidissime per te, abbiamo ancora 4 minuti scarsi. La prima, c'è chi ha commentato oggi sui giornali, ma insomma, soprattutto la CGIL, ma anche i piloti si sono risieduti perché non gli era piaciuto il metodo oltre che i contenuti, cioè il dire questo è il piano o firmate o saltate dalla finestra, e hanno voluto vedere una vittoria della linea più diplomatica di Gianni Letta rispetto a quella un po' più prendere o lasciare del ministro welfare Maurizio Sacconi. Nella prima proposta prendere o lasciare ci sarebbe stata una conseguenza drammatica per i piloti, un contratto unico che annacquava la loro rappresentanza sindacale autonoma, perché sarebbero confluiti in un sindacato unico, quindi essendo i piloti 2500 destinati pure a scendere, è chiaro che avrebbero avuto un peso minoritario. Ora loro avranno comunque un contratto separato, per cui la loro identità sindacale rimane, quindi su questo c'è una differenza di metodo che è anche di contenuto. Terza e ultima domanda, accanto alle trattative sempre in corso, sempre rinviate, sempre diciamo verso la svolta, oggi la novità mi sembra questa linea di adesioni, l'ha fatto la Polverini che è segretaria generale della UGL, lo ha detto anche Angeletti, segretaria generale della UIL, su Lufthansa. Allora, i vertici di Lufthansa sono venuti oggi a Roma, il presidente Wolfgang Mayrhuber ha avuto colloquio a Palazzo Chigi con il governo italiano, chiamato dal governo italiano, attenzione, e anche con i rappresentanti sindacali. Non ha voluto commentare, però tu, quando c'era ancora un piano Lufthansa, mi riferisco a fine 2007, ottobre 2007, tu scrivesti che era un piano che piaceva molto ad alcuni elementi del governo, alla Lombardia, perché puntava di più su Malpensa dalla parte di traffico, sì, business, su Fiumicino da parte turistica, insomma contratti legati alla produttività dei dipendenti dell'Italia. È per questo che piace? Sì, sostanzialmente è per questo che piace di più al territorio a nord, perché Lufthansa, almeno per il suo modello cosiddetto multi-hub, è più interessata, peraltro lo stava già facendo in via autonoma, annunciando che dall'anno prossimo ci saranno 6 aerei a Malpensa per collegamenti europei, e quindi manterrebbe questa impostazione. Tuttavia le variabili sono molte, anche Air France sembrerebbe disponibile ad accettare un modello non più basato strettamente su Roma, ma anche su un altro hub, purché da parte italiana si scelga qual è l'unico hub su cui puntare, cioè e non si debba disperdere su due grandi aeroporti. È un tema comunque che probabilmente sarà quello più difficile, questo del presidio territoriale. Eh sì, anche perché Lufthansa, da quello che ha dichiarato, dalle indiscrezioni, a Lufthansa piacerebbe entrare addirittura con una quota quasi di maggioranza nella nuova società, o comunque arrivare poi a una quota di maggioranza. Grazie per ora a Gianni Dragoni del Sole 24 Ore, voce appunto e firma quando parliamo di Alitalia. Da Sebastiano Berisoni un ringraziamento a Mauro Del Corno, Barbara Bianchi, Gaia Romani per l'assistenza in redazione. Un augurio a voi di un buon fine settimana. Ci sentiamo lunedì dalle 17 in poi, parleremo anche di Alitalia e di mercati.